Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con il boom della sharing economy non c'è servizio ormai che non possa essere coperto, diciamo così, da una piattaforma pronta ad offrirci quello di cui abbiamo bisogno nel minor tempo possibile, in un modo del tutto nuovo e ad un prezzo vantaggioso. Come? Utilizzando risorse inedite. Ecco allora che con l'home sharing le case diventano l'alternativa agli alberghi, Airbnb e simili, oppure con il social eating ai ristoranti, vedi Gnammo, così come con il ride sharing chiunque possieda un'auto può sostituire il trasporto pubblico e ancora chiunque possieda una bicicletta diventa un potenziale fattorino pronto a sfrecciare nelle città per consegnarci il cibo dei nostri ristoranti preferiti, ma non solo. Sono le faccende, le commissioni, dunque il nuovo tesoro sharing, e noi ve lo raccontiamo tra pochissimo, iniziando a riflettere anche su un aspetto che ha meno a che fare con il consumatore e i suoi vantaggi, ma sul quale vanno accesi i riflettori: il lavoro ai tempi della sharing economy. Anche la moda cambia il modo di raccontarsi e rompe convenzioni e stereotipi. Con il focus sui trend torniamo su un tema che ci sta a cuore nel mondo dei consumi, citando i nuovi casi che fanno scuola e segnano il cambiamento. Ragazzi, sono 2 anni che si vive tutti insieme. Si è dato 3 esami in 4. Non lo so, è giusto? 3 esami in 4 è giusto? Non lo so. Quanto viene a testa? 80 a testa. Festa mia pago io, dai. No, proprio perché la festa è tua si paga noi, dai, dividi per 3. No, Leonardo, questa regola quando l'hai fatta? Al mio paese veramente paga il festeggiato. Dai, hai ragione, faccio un assegno. Vai a vuoto, no, si paga noi. No, veramente, allora la regola delle regole la so io, è questa. Se non gli si è fatto il regalo, paga lui. Se non gli si è fatto il regalo, si paga noi. Gli studenti, si sa, hanno tempo libero e bisogno di soldi. Su di loro ha deciso di puntare Task Hunters, piattaforma che mette in contatto chi ha tempo libero da impiegare, appunto, con persone a cui invece manca il tempo per svolgere le piccole faccende quotidiane, come ritirare i vestiti in tintoria, fare la spesa, montare un mobile. Attiva per ora solo a Milano, nei prossimi mesi anche a Roma, Torino, Bologna e Padova. Alberto Mora è uno dei fondatori di Task Hunters. Da una parte abbiamo visto che in Italia ci sono milioni di privati che ogni giorno vorrebbero delegare le loro faccende a qualcun altro perché non hanno tempo di seguirle. Si tratta per esempio di attività come il montaggio di mobili, farti portare a casa le camicie pulite dalla lavanderia, pet care, faccende domestiche. E dall'altra parte c'è una comunità di studenti universitari che sono in cerca di piccoli lavori temporanei durante il loro percorso di formazione. Stiamo parlando circa del 40% della popolazione di tutti gli studenti. Quindi Task Hunters è un'app che fa incontrare questi due diversi segmenti di mercato e permette quindi ai privati di delegare questi piccoli lavori che noi chiamiamo task alla comunità studentesca intorno a lui. Possiamo definirvi la versione italiana di TaskRabbit? Allora, TaskRabbit è una società che usiamo sicuramente come punto di riferimento, però ci sono alcune differenze. Noi ci stiamo focalizzando sugli studenti, su TaskRabbit ci sono i tasker che hanno già un proprio tariffario e svolgono delle attività, diciamo, professionali, mentre nel caso di Task Hunters gli studenti svolgono delle attività che sono principalmente time consuming e non richiedono particolari skill per essere portate a termine, bensì semplicemente tempo. Il prezzo chi lo fissa? Quando il task viene postato, il requester, ossia chi richiede il task, fissa alcuni parametri, quindi per esempio la geolocalizzazione, la data di scadenza del task e il prezzo. Una volta che il task viene postato, poi gli studenti iniziano a proporsi per questo task, iniziano a prendere contatto con l'utente attraverso una chat privata e hanno anche la possibilità di rilanciare il prezzo giustificando, quindi il prezzo viene deciso da entrambi gli utenti congiuntamente. Quindi il vostro è un modello di sharing economy autentica? Se consideriamo la sharing economy come un sistema economico in cui i beni o i servizi vengono condivisi tra individui e consideriamo il tempo come una risorsa preziosa, allora in questo caso sì, possiamo considerare Task Hunters come una piattaforma di sharing economy in cui appunto gli utenti che non hanno tempo hanno la possibilità di delegare agli studenti che invece hanno tempo le proprie attività. Si tratta per loro di un reddito integrativo, non di un lavoro tradizionalmente inteso. Sì, certamente non abbiamo la pretesa di proporci come un mercato di lavoro, come una fonte primaria di reddito. La Scantres ha più l'obiettivo di andare a creare tante piccole occasioni di guadagno in un segmento particolare di mercato dove in questo momento non ce ne sono. Partita con il food delivery, la consegna di cibo a domicilio, Glovo punta alle consegne locali in generale, permettendo agli utenti di acquistare e ricevere nel più breve tempo possibile qualsiasi prodotto reperibile in città, non solo cibo dunque, ma anche medicinali, prodotti di cosmetica, fiori, gadget elettronici. Nata a Barcellona, è attualmente presente in Spagna, Francia e Italia, è attiva in 8 città, tra cui Milano, presto anche Roma. Matteo Picchi è il Country Manager Italia. Glovo è un servizio che cerca di rendere la città più accessibile a tutti attraverso un'app e anche un sito web, ma fondamentalmente attraverso il telefonino. Ti permette di richiedere qualunque cosa sia presente in città, perché ci sarà sempre uno dei nostri Glover che sarà pronto a farti quella commissione in circa mezz'ora, 40 minuti, insomma nel più breve tempo possibile. Quindi diciamo che il nostro obiettivo, la nostra missione è quella di rendere la città più accessibile. Veramente qualunque cosa che si potrebbe fare in città si può richiedere perché c'è una persona disposta a farla. Quali sono le commissioni più richieste? Bisogna essere sinceri, il cibo è la parte più importante di ogni business on demand quando si tratta di consegne. Una persona mangia 3 volte al giorno, quindi ovviamente è più facile incontrare la necessità delle persone in questo modo. Quindi direi che il prodotto è il cibo. Se invece mi chiede la commissione, probabilmente direi le chiavi, cioè quando qualcuno ha lasciato le chiavi da qualche parte e vorrebbe portarle da un'altra parte. O ad esempio anche il computer, no? Penso che a Milano sia abbastanza normale uscire dall'ufficio con il computer in mano, non volerlo per fare l'aperitivo. Molto spesso la gente ci chiede: mi puoi portare il computer a casa? Quindi noi arriviamo probabilmente l'ultimo minuto della giornata lavorativa del cliente e portiamo il computer a casa. Voi vi inserite negli interstizi, diciamo così, dalla quotidianità di ciascuno di noi per ottimizzare tempi e spostamenti, insomma. Esatto. mi sembra di aver capito. Il prezzo chi lo fissa? Allora, il prezzo dipende da tantissime variabili, anche perché diciamo che il nostro prezzo, poi come tutti i servizi on demand, deve rispettare quelli che sono i costi delle persone che poi fanno il servizio. Dunque ci sono tantissime cose che intervengono. Noi ad oggi a Milano siamo partiti con un prezzo fisso di 5,90 euro IVA inclusa su ogni commissione, mentre quando noi abbiamo un accordo con quel tale negozio, quel tale ristorante, quella tale insegna, a quel punto la commissione diventa bassissima, delle volte è gratis, delle volte è massimo 1,9. E anche il partner ci riconosce qualcosa per cercare di coprire i costi che sono quelli dei nostri Glover. Nell'economia dei servizi on demand in grandissima espansione, queste sono realtà che cavalcano la cosiddetta gig economy, l'economia del lavoretto, della prestazione occasionale. Uno scenario che in assenza di un quadro normativo di riferimento si presta però ad alcune distorsioni, come testimonia ad esempio il caso di Foodora, la piattaforma tedesca per la consegna di cibo a domicilio. Siamo sottopagati, poco più di 2 euro a consegna, iperprecarizzati, denunciano a Torino i suoi fattorini in bicicletta, invitando i consumatori a boicottare il servizio. Perché se per i consumatori i vantaggi sono innegabili, per i lavoratori le zone grigie sono molte e ancora tutte da chiarire. Cerchiamo allora di farlo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo parlando di lavoro e sharing economy, del lato buono e di quello cattivo della cosiddetta gig economy, l'economia del lavoretto, della piccola mansione. Ci siamo chiariti le idee con Valerio De Stefano, che insegna diritto del lavoro all'Università Bocconi ed è uno dei primi giuristi italiani ad essersi occupato del lavoro nella nuova economia dei servizi online. Molto spesso viene frainteso come una specie di hobby o di attività che la gente fa per piacere, ma in realtà è vero, il proprio lavoro, e quindi si porta con sé tutte le contraddizioni che il lavoro ha. È più corretto parlare di gig economy che di sharing economy in questo caso? Allora, io non sono un grandissimo fan di etichette di questo tipo. In realtà la sharing economy è quella economia della condivisione che per esempio ci fa mettere insieme, non lo so, un passaggio in macchina, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, allora ci muoviamo insieme e condividiamo le spese, ma questo non c'entra assolutamente niente con il lavoro di chi per esempio porta i pacchi perché un consumatore vuole mangiare la pizza a casa propria senza uscire di casa, oppure qualcuno che ti dà un passaggio in macchina per una remunerazione da casa tua all'aeroporto. Qui non c'è niente di condivisione, non ha proprio senso parlare di sharing economy in questo caso, per cui si usa questo termine di gig economy, però in realtà si farebbe prima a parlare di lavoro, attività lavorative e mercato del lavoro in generale. Sono proteste queste che sono partite anche dagli autisti di Uber negli Stati Uniti. Tipologie di lavoratori come queste alla fine sono da considerarsi autonomi o dipendenti? Allora, questo è il punto centrale della questione e la risposta è che non c'è un'unica risposta. Ci sono dei modelli che funzionano più con una ingerenza anche gerarchica da parte delle piattaforme, delle società sulla prestazione lavorativa e che somigliano di più a quello che noi intendiamo normalmente come il lavoro subordinato. In altri casi le piattaforme svolgono semplicemente un'attività di mediazione o di coordinamento molto più blanda e quindi si tratta di lavoro autonomo. Come detto, la gig economy per sé non esiste, non è un settore, non è come il settore metalmeccanico. C'è una varietà di lavoro enorme, in alcuni casi c'è chiaramente subordinazione, in altri casi invece questa non esiste. Siamo ancora agli inizi, per cui per il momento è ancora in una fase embrionale, ma più si andrà a diffondere questo tipo di modello organizzativo, più vedremo anche l'intervento di associazioni sindacali e datoriali anche su questo fenomeno. È una cosa naturale che per il momento è molto nuova e bisogna dare il tempo agli operatori tradizionali di rendersi conto di cosa sta succedendo. Focus sui trend. Come stanno cambiando i modelli femminili per il mondo dei consumi? Su quale tipo di donna punta la comunicazione più avanzata? Le strategie vincenti, dimostra il mercato, sono quelle fuori dagli schemi e dagli stereotipi, quelle che sfidano il pensiero comune all'insegna dell'unicità. E allora ne parliamo, ci facciamo raccontare tutto da Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Ciao a te, bentrovati a tutti. Allora, partirei subito dai casi che hai selezionato per noi. Il primo è uno spot che ribalta completamente la comunicazione di un settore molto conservativo, di solito, diciamo così, stereotipato, è quello dei profumi. Certo, un profumo che è stato lanciato a fine estate, il profumo, un nuovo profumo di Kenzo, con un video che ha veramente scompaginato le regole di lancio in quest'area della cosmesi, diciamo i canoni, i cliché, l'idea di bellezza, ecco, quindi è un video firmato Spike Jonze, che conosciamo per il film Essere John Malkovich, Air, ma anche per molti video da Beck, Bjork ed altri ancora. Praticamente una bellissima ragazza, la figlia di Andy McDowell, Margaret Qualley, che a una festa molto seria, molto compita, molto elegante, a un certo punto esce e inizia una danza assolutamente sfrenata. Attraverso una danza, attraverso un'espressione oltre le righe, si possono anche così provocatoriamente rilanciare dimensioni altre dell'essere femminile. L'idea è di puntare sulla una diversità e l'unicità allo stesso tempo, dove l'unicità è la chiave anche per la definizione di un pubblico di riferimento sempre più multiforme e articolato, e la diversità assume il ruolo di catalizzatore di fenomeni quotidiani e allo stesso tempo anche straordinari. Ed è un video che ovviamente è diventato subito virale, chi non lo avesse ancora visto lo trova sulla nostra pagina Facebook. Sabrina, a marcare il cambiamento è anche la mobilitazione a sostegno delle donne. Assolutamente, quindi l'audacia, la stessa audacia e l'uso dell'estetica, del linguaggio estetico, può essere utilizzato anche in campagne sociali, quindi vediamo che gli aspetti creativi e critici, il pensiero critico intendo, possono andare parallelamente e dialogare per ambiti diversi. Parlando di una campagna sociale, mi riferisco alla campagna My Body Back, un'associazione inglese che lavora con donne che hanno subito abusi, campagna fotografica che ha coinvolto un famoso fotografo di moda inglese, Rankin, un fotografo che dalla regina Elisabetta a Madonna ha immortalato molte persone importanti, e lui ha fotografato donne che hanno subito appunto abusi, che hanno disegnato, scritto sul proprio corpo, sulla propria pelle, alcune frasi personali, questi segni di un recupero di un corpo e attraverso il corpo recuperare anche una libertà di vivere pienamente, no? Al di là dell'età, dei percorsi di vita e dei canoni imposti. Con il terzo caso torniamo al mondo della moda, perché proprio da qui, da un mondo tradizionalmente permeato dagli stereotipi femminili, arrivano segnali importanti di svolta. Il 5 ottobre Karl Lagerfeld ha voluto lanciare l'ennesimo immaginario legato al mondo femminile, quindi dopo aver esplorato un finto supermercato, un finto casinò e un finto aeroporto per le precedenti collezioni, per la settimana della moda appunto il 5 ottobre ha scelto di tenere la sfilata della collezione femminile in un data center Chanel, un data center in effetti era al Grand Palais di Parigi, ma allestito come in un vecchio laboratorio della NASA, ecco, quindi con maschere, parastinchi e guanti le modelle avanzavano, sembravano anche come casche dei Stormtrooper di Star Wars e altri elementi riprese un po' dall'immaginario fantastico, un po' quasi a, così a suggerire quali dimensioni possono essere ancora esplorate dall'universo donna. Chiudiamo con un caso che a me personalmente, me li hai tutti anticipati Sabrina, piace moltissimo. La parola chiave in questo caso è ironia. Assolutamente, qui c'è un'ironia rivelatrice di un progetto che la vede lunga e anche un'empatia profonda, in questo caso l'empatia con il mondo femminile è di un'azienda belga che ha lanciato un E-Cup Day for Men. Questa azienda belga si chiama Prima Donna e sono specializzati nella produzione di lingerie di lusso dalla coppa C alla J. Cosa hanno pensato? Che di fatto molti uomini fanno fatica a capire le conseguenze fisiche di un seno prosperoso e per questo hanno lanciato questa giornata, questa E-Cup Day for Men, una giornata in cui tutti gli uomini dell'azienda hanno indossato una struttura dal peso di 3 kg, equivalenti a una coppa E. E come ha dichiarato l'amministratore delegato, decine di studi confermano il disagio fisico provato da una donna quando indossa un reggiseno mal strutturato, e il video che è stato raccolto da questi uomini che si aggiravano dagli uffici a altre aree e dipartimenti della fabbrica è molto molto interessante, fa sorridere e fa pensare allo stesso tempo. Beh, insomma, un invito a mettersi nei propri panni, ecco, quindi assolutamente all'insegna dell'empatia, mi sembra anche un esperimento sociale quasi ben riuscito, concordi Sabrina? Sì, è un esperimento sociale, anche qua utilizzando la doppia chiave dell'estetica, dei linguaggi estetici, dei linguaggi della comunicazione, quindi anche fresca e sopra le righe e allo stesso tempo con un pensiero critico e il scendere, in questo caso dell'azienda, in prima linea per avvicinarsi ai propri consumatori. Alla prossima Sabrina, grazie. A prestissimo, ciao. Il consumautore. I consumautori siamo tutti noi, sempre più protagonisti, informati, responsabili nelle nostre scelte di consumo, sono le riflessioni che accompagnano il nostro dialogo con il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa. Questa sera per la nostra chiacchierata finale, lo vedo già sulla scrivania, mi hai portato un libro. Sì, partiamo da un bellissimo libro di Chiara Valerio, che già dal titolo apre un mondo, perché il titolo bellissimo è Storia umana della matematica, e naturalmente quello che colpisce è questa dimensione umana. E una delle cose che nel libro viene raccontato, che è un libro anche autobiografico e molto piacevole alla lettura, e che però afferma alcune cose importanti, io credo, anche per il marketing, la comunicazione, per capire meglio i nostri consumatori. Ad esempio, la Valerio dice: la matematica è immaginazione che educa all'invisibile, no? E quindi a un mondo anche immateriale, che però è quello che ci rende umani. Nell'era dei big data, della profilazione continua, quindi insomma di questa grande quantità di numeri e di dati che ci accompagnano, è difficile lasciare spazio all'emozione, all'immaginazione. Sì, siamo schiacciati o dai numeri e dai dati che viviamo però come solo come dei vincoli, oppure ci lasciamo magari affascinare dalle immagini ma senza un'elaborazione, diciamo, concettuale. L'altra cosa che Chiara Valerio dice in questo libro molto bella è: in realtà la matematica nasce perché gli esseri umani sono impazienti e quindi abbiamo bisogno di misurare il tempo, prima con i sassolini e poi con le equazioni matematiche. Ecco, ci sono tanti spunti che credo possano essere utili anche per manager e imprenditori che in Italia almeno ancora oggi hanno questa capacità anche di sognare, no? Di immaginare dei business. Beh, un libro che posso suggerire a mia figlia quando mi dice: non sono portata per la matematica, mamma, da studenti, ma non solo, da professionisti, così come da genitori, da amici, da compagni. Viviamo del resto nella costante ricerca dell'equilibrio tra la nostra parte più razionale e quella emotiva, quindi tra la misurazione e l'intuito. Vale anche nel marketing questo. Assolutamente, tra l'altro la matematica vive questo pregiudizio che chi ha difficoltà pensa sia una materia arida, no? Una materia solo razionale. È proprio il contrario, perché se non hai immaginazione e intuizione non costruisci negli algoritmi, e quindi questo vale anche per il marketing. Oggi le aziende, i comunicatori, gli imprenditori devono riappropriarsi di questa capacità anche di costruzione, quindi molto pratica, ma facendo un passo più in là. Ecco, questo credo che sia veramente molto importante. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.